Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti su Radio Bawalla, questa è la puntata zero di Strip Trip. Io sono Alessandro e vi accompagnerò in questa avventura. Cos'è Strip Trip? È il progetto di un programma basato sui fumetti, appunto, Strip Trip, un viaggio. Un viaggio per capire cos'è il fumetto, come farlo, come leggerlo, come guardarlo. Il fumetto è tutto quello che c'è attorno al fumetto. La tecnologia, le matite, il come disegnarlo, il come vederlo, guardarlo, comprarlo, dove, come e quando. Le nuove uscite, gli avvenimenti, gli eventi. E perché no? Anche un po' di musica, d'altronde siamo su una radio. Cominciamo parlando un po' del fumetto. Penso che tutti voi, bene o male, sappiate cos'è il fumetto. Lo sapete che la scena italiana ultimamente è molto più viva. Sta crescendo, sta aumentando. Ci sono molti più disegnatori, molto più giovani. E c'è anche un sacco di gente che ci ha preso gusto e legge. E leggono anche tanto, ma soprattutto leggono autori nuovi. Leggono e leggiamo autori nuovi. Ultimamente tutto questo fermento si focalizza in Lucca Comics. Questo evento avviene tutti gli autunni ed è una fantastica fiera nel centro storico di Lucca. Io quest'anno ci sono stato e stasera magari vi racconto com'è andata. È stata un po' un'avventura perché mi sono ritrovato a viaggiare da solo verso quella che è in fondo la mia passione. Volevo andarci ad ogni costo e così è stato. Anche se tutti mi hanno tirato pacco, forza di cose mi sono alzato alle 5 del mattino, ho preso la mia macchina e sono partito. Adesso ci ascoltiamo questo brano, dopodiché parliamo di Lucca e vediamo chi ho incontrato e cosa ho comprato. A dopo! Debole, se guardo sotto, vedo la gente ridere. Certezza che mi fa mandare tutto. bella ragazzi, questa era Post dei Metrognomi. A me non dispiace, ci piacciono i Metrognomi. Stavamo dicendo di Lucca, del mio viaggetto verso Lucca e della mia piccola avventura, cioè avventura, oddio, sono andato solo a una fiera, non è che fosse chissà che cosa. Comunque è arrivato, un po' di difficoltà a trovare il centro, poi ho visto la coda di macchine e mi sono infilato, parcheggiato al cimitero, lasciato quei 2 eurini allo zingaro di turno e mi sono avviato verso la città. Le mura, la gente e i cosplayer, cazzo, era pieno di cosplayer. Mi sono ritrovato di fronte di tutto, da Porco Rosso a Skiri, ma qualsiasi cosa, c'era l'inferno. Qua c'è qualcuno che non sa chi sono i cosplayer. E con la gente pazza che si veste come i personaggi dei fumetti, dei videogiochi o dei film. E si ritrovano proprio a fare dei gran vestiti. Mi sono trovato gli Stormtroop, che sono quelli di Star Wars, quelli bianchi nel parcheggio. Si stavano vestendo con queste armature vere, cioè avevano il sottoarmatura, l'armatura e il loro bel fucile laser che sparava davvero laser. Ed erano in 6. E sono partiti in marcia, letteralmente, uno a fianco all'altro, in linea, marciando veramente. Passate le mura, ci si ritrova dentro questo mondo che sembra un po' irreale. Fortunatamente sono riuscito a trovare un'amica in coda e prenotate prima, prenotatevi il biglietto prima perché sono passate 1 ora in coda. Fatto sta che mi sono fatto un giretto tra gli autori autonomi, gli autoprodotti, ho incontrato quei pazzi che hanno disegnato Gesù, cercatevelo, googlatevelo, ve lo racconterò poi un'altra volta, ma stasera googlatevelo quello. Mi sono guardato 2 o 3 pupazzi fatti di lana, fantastici, ne avrei comprato qualcuno ma minchia, che prezzi. E così sono saltato direttamente alla mostra del concorso di Lucca, forse ne parleremo ma non stasera. E poi via, verso il padiglione, quello grosso, con tutte le case editrici vere, con i pezzi grossi sia del fumetto italiano che estero, soprattutto tantissimo fumetto giapponese. Parleremo di Zero Calcare tra poco. Vi racconto il suo ultimo libro e come lui. A dopo. We'll be right back. Bentornati a Strip Trip, ragazzi. Questo erano i Silence is Sexy con Rain Begins to Fall. La pioggia inizia a cadere. Stasera fa un gran freddo, ma per fortuna non piove, non ancora almeno. Come vi dicevo prima, ero Luca e cominciamo a parlare di Zero Calcare. Mi sono infilato subito in coda all'editore, che è la Bavo Publishing, e c'era Zero lì a firmare gli albi per i fan e mamma mia, era infinito. E io infatti ho preso il fumetto, ma non c'era più posto per farsi fare la dedica di lì a 3 giorni, quindi mi sono arreso direttamente. Zero Calcare, chi è? È un ragazzo di Roma, un ragazzo, mi piace pensare, un po' come me, che ha iniziato a disegnare nei e per i centri sociali, locandine per concerti, gruppi. Dopo Genova ha fatto un piccolo fumetto riguardante il G8. Di lì, grazie alle conoscenze con Macox, che forse qualcuno di voi conoscerà, un altro disegnatore italiano, ha aperto un blog. Da questo blog è uscito fuori il suo primo libro, che è La profezia dell'armadillo, che appunto insieme a Macox hanno autoprodotto e hanno fatto fuori 500 copie in un lampo. Dopodiché la Bavo Publishing si è accorta di questo ragazzo e ha deciso di produrlo. Di lì è cominciata l'escalation di successo, il blog, milioni di visite da tutti gli italiani, lui pubblicava un fumetto ogni lunedì, e diciamo visite, condivisioni, grande successo, grandi vendite del suo primo libro, una riedizione a colori. E come mai? Cos'è successo? Come mai questo autore ha così successo? Diciamo che, essendo un ragazzo come noi, parla di noi, dei problemi che abbiamo tutti i giorni, problemi che abbiamo noi giovani, come cercare lavoro, trovare lavoro, o tirare, arrivare a fine mese facendo i traduttori e i disegnatori, magari dovendo anche fare ripetizioni di inglese o di francese o di tedesco. Perché lui fa anche questo, non è solo un disegnatore, ma anche un traduttore, traduce e insegna anche ai ragazzi. Insomma, questo successo non gli ha dato la testa comunque. Il suo stile è molto, molto diretto, molto simpatico, infila le sue storie di tutti i giorni nel suo fumetto, parla della sua vita e anche quella dei suoi amici. Tutte le persone che conosce, o come succede per l'armadillo, prendono forma di animali o di esseri dei cartoni animati della nostra infanzia, quindi sicuro riconoscerete Lady Cocca, che è poi sua madre. Altri personaggi a noi comuni per l'infanzia che abbiamo in comune appunto con Zero. È uscito da poco il suo ultimo libro e questo è stato il mio acquisto, un polpo alla gola. Io l'ho trovato veramente fantastico, pensavo quasi di trovare una brutta copia dell'armadillo, un autore giovane, figurati, riuscirà mica a scrivere 2 libri in un solo anno. Invece mi ha stupito, ve lo consiglio, prendetelo. All'inizio rimarrete un po' così, ma da metà in poi grasse risate, e poi il finale è fantastico, vi lascerà col fiato sospeso. Ci sentiamo un altro pezzo e ci riparliamo dopo. Rieccoci, questo era GDA, Don't Die. Un po' negramaro, ma insomma, forse questo ci piace un po' meno. Ma vabbè, fa niente, succede. Bene, siamo sempre Luca e beh, dopo aver fatto l'acquistone di Zero Calcare mi sono fatto un bel giro, ho incontrato altri autori, ho fatto altri acquisti, forse ne parleremo in un'altra occasione, ma vorrei parlarvi della Wacom. Perché sì, c'era anche lo stand della Wacom a Lucca e mi sono fatto un bel giro. Sono stato una buona mezz'oretta a scarabocchiare, a provarmi la Cintiq piuttosto che l'altra, quell'altra tavoletta e c'era anche la presentazione di Inkling. Per chi non lo sapesse, si parla di tavolette grafiche, quelle con cui potete disegnare direttamente al computer. Qualcuno mi starà tirando la banana che stava mangiando di fronte al computer, però c'è chi non lo sa. E ne ho la prova, ve lo assicuro. Insomma, la Wacom produce tavolette e da un annetto ha tirato fuori questa novità, si chiama Inkling. È una penna con cui voi potete disegnare sul vostro netbook, sul vostro foglietto, quello che vi pare. Basta che abbiate il resto dell'aggeggio attaccato in cima al foglio. Questa penna registra la pressione e il tratto sul foglio. Alla fine del vostro schizzo potete bellamente prendere l'aggeggio che avete attaccato sul foglio e attaccarvelo al computer e scaricarvi lo schizzo che avete fatto in formato vettoriale. Formato vettoriale vuol dire che potete scalarlo all'infinito. Potete ridurlo, modificarlo, quanto vi pare. Questa è una gran cosa per anche chi come me disegna sul treno, ad esempio. Io un pensierino ce l'ho fatto, poi ho visto il prezzo di 160 euro e ho detto vabbè, ci ripenso magari dopo la tredicesima. Attacchiamo la Inkling al computer e possiamo scaricare il nostro schizzo sul computer. La cosa bella è che ogni tratto fatto dalla penna costituisce un livello, quindi noi possiamo importare in Photoshop, Illustrator o altri programmi che adesso non ricordo, ma sicuramente con Painter o qualsiasi altro programma voi possiate usare, potete scaricarvi il formato vettoriale e decidere da quale schizzo, da quale momento, da quale livello in poi prendere il disegno e fino a che livello, a quando. Dopodiché potete editarlo completamente come se l'aveste fatto al computer. Questa è una gran figata, una gran comodità per chi appunto viaggia o per chi anche solo si trova molto meglio a disegnare su carta ma ha la necessità magari dopo di scansionare. Questo era il nostro ultimo argomento, ci sentiamo ancora un pezzo e ci riparliamo dopo. Lì. Questi erano i Kavanaugh, Come Look For Me, Come Look For Me. Bene, siamo arrivati alla fine, è già la fine, mi sembra passato un quarto d'ora. Penso che ci ritroveremo, questa è la prima di una lunga serie, spero. Io sono sempre Ale, ricordatevi di me, ci ritroveremo la prossima volta e beh, magari potremo parlare dei Tre Allegri Ragazzi Morti, di Toffolo, conoscete? Toffolo. Cercatevi qualcosa di Toffolo, così magari la prossima volta ci troveremo già preparati entrambi sull'argomento. Beh, è stato un piacere parlarvi, parlarci, sentirci e spero ci ritroveremo su Radio Bawalla alla prossima puntata. Ci riparliamo la prossima volta. Ciao!